è un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui con la Zanzara alle 18.37 minuti, 800 24 00 24, è sempre numero verde per le vostre telefonate. SMS 349 238 6666, la Zanzara @ radio24.it, TG2. Tremonti dall'Ecofin parla della manovra, nel mirino veri evasori e falsi invalidi, non aumenteremo le tasse, pensioni, il nostro tra i sistemi più stabili, e intanto allo studio c'è un nuovo redditometro. Strage per un attacco kamikaze a Kabul, nessun italiano coinvolto, i genitori di uno dei due alpini uccisi ieri, si è sacrificato per la pace, la Russia, manderemo rinforzi. Il mistero a Roma del serial killer individuato dalla polizia, avrebbe ucciso 7 volte, forti sospetti su un ex infermiere ora in carcere per omicidio, i suoi legali negano. Condannati per omicidio colposo dal Tribunale di Firenze, padre e madre che sospesero l'insulina alla figlia diabetica di 16 anni, si affidarono ad una guaritrice e la ragazza morì. E poi c'è studio aperto. Ancora sangue in Afghanistan, nuovo attacco contro un convoglio NATO, 18 le vittime. I talebani rivendicano la strage, camera ardente ad Herat per i nostri alpini uccisi. Delicato intervento chirurgico per la soldatessa ferita. Il ministro Tremonti riassume i contenuti della prossima manovra. No a nuove tasse, nessuna modifica al sistema pensionistico. Caccia ad evasori e falsi invalidi. L'Italia, ha detto, manterrà il debito pubblico nei limiti fissati dall'Europa. La Russa, perché? La Russa, ministro, la Russa, perché? Perché, ancora me lo chiedo, ieri era una giornata di lutto, era una giornata di contrizione, eppure a un certo punto, durante il pomeriggio, il ministro della Difesa ha chiamato l'ufficio stampa e ha dettato allo stesso ufficio stampa queste parole: il Siena contro l'Inter ha solo cercato uno sterile e inutile 0-0 con un catenaccione vecchia maniera. E il bello è che ha poi costretto lo stesso ufficio stampa a dire: beh, non era un'iniziativa del governo ma dell'ufficio stampa, come se la cosa lo salvasse. La Russa, perché? Ma anche oggi c'è un teatro, un teatrino della politica in azione. Per esempio, il governatore della Sicilia, Lombardo, un po' scherzando e un po' no, sentite cosa ha detto ai suoi adepti, ai suoi elettori, ai suoi iscritti, ai deputati regionali del Movimento per l'Autonomia. Tesseratevi, altrimenti dobbiamo rubare. Quanti hanno fiducia in noi meritano un grande applauso e soprattutto che noi siamo conseguenziali. Iscrivendoci a questo movimento fate le 30.000 tessere senza risparmiare, anche con la sottoscrizione di chi è consigliere, di chi è assessore, del suo miserabile 10%. L'alternativa è rubare. D'Alema furibondo nei confronti di De Benedetti dopo le parole contenute nel libro di Guzzanti, di cui abbiamo parlato dal Salone del Libro di Torino. Sentitelo parlare chiaramente di De Benedetti quando dice: Berlusconi di serie B. Di gente che fa il verso a Berlusconi a sinistra ci sarebbe un lungo elenco. Berlusconi, diciamo, si tratta di Berlusconi in generale di serie B, dal punto di vista almeno dei risultati, i suoi sono indiscutibili, diciamo. Ecco, ci potrebbe fare un lungo elenco. A nessuno verrebbe in mente di farci dire Sarkozy non ha combinato niente perché ha fatto solo politica nella sua vita. Ma non è finita, abbiamo da ieri una Daniela Santanchè, la quale sceglie l'esempio sbagliato per parlare male delle intercettazioni, o comunque per dire che bisogna stringere sulle intercettazioni, bisogna limitarle, eccetera, eccetera. L'esempio sbagliato è la privacy dei mafiosi. Se c'è un mafioso che si sta indagando su un mafioso. Che senso ha intercettarlo mentre parla con la fidanzata degli atti sessuali che compie o quando parla con la madre? Questo non ha senso, un abuso, ma sono milioni, migliaia di euro che vengono spesi. Per cui voglio essere chiara su questo punto, nessuno vuole eliminare l'istituto delle intercettazioni, strumento fondamentale per capire, ma l'abuso va assolutamente tolto. Santanchè, perché anche con lei? Perché Santanchè? Cosa c'entra la privacy dei mafiosi che parlano con la fidanzata? Come si fa a sapere cosa dicono prima un mafioso, un presunto tale, con la fidanzata o con l'amante o non so con chi? Come si fa a sapere prima? Vabbè, in tutto questo c'è anche Marco Pannella, il quale sentite, ma insomma, trattasi di cose surreali, sostiene, oggi, se non sbaglio, Radio Radicale, dice... Beh, insomma, io mi candido a guidare il paese con un governo tecnico di salute pubblica, siccome c'è lo sfascio più generale, mi candido. Pannella. All'inizio dell'anno mi candidavo a presiedere un governo, il governo del nostro paese. Sono non solo disponibile, ma forse anche fisicamente pronto ad assumere le responsabilità del governo della catastrofe italiana per uscirne fuori. E questa è la Pannella che si propone per uscire dalla catastrofe, si propone come come guida del paese. 800 24 00 24. Chiudiamo questa prima parte con Carlo Rossella, che ieri a 8:30 ha detto di essersi scandalizzato addirittura ci sono gli estremi per la diffamazione nei confronti dell'Italia per il film della Guzzanti. Rossella, sentite. Ti ho visto il film oggi pomeriggio e mi sono molto scandalizzato nel senso che io ho considerato questo film una diffamazione totale del paese, del governo, del capo del governo, ha dipinto l'Italia come un paese del terzo mondo, come una dittatura, come un paese nel quale si stanno facendo le prove per lo stato d'assedio, come un paese alla deriva, basta, gli italiani sanno benissimo che non è così. Questa era Rossella ieri sera 8:30, Traffico, torniamo tra un istante. La Zanzara. Eccoci, 18:45, collegamento da casa sua con Stefano Andreoli, Spinoza.it, buonasera. Buonasera Giuseppe, buonasera a tutti, ciao. Ciao Stefano, il meglio della satira italiana che fra poco, come sapete, diventa libro, esce la settimana prossima. Spinoza, un libro serissimo per Liberti Editore. La Russa, dimmi qualcosa. La Russa, vergogna al Siena, ha giocato per la Roma, ma in realtà pare fosse un messaggio indirizzato a Fini. La Russa dichiara: il nostro avversario ha giocato per vincere e in politica, si sa, non è abituato a queste cose. La Russa, noto interista, ha dichiarato: non se ne può più di questi atteggiamenti volti a falsare l'irregolarità del campionato. E poi, finito qui, La Russa? Finito qui, tre imbeccatine sulla Russa. Tre imbeccatine sulla Russa, torniamo più tardi, grazie a Stefano. A dopo, ciao. Ciao, Bruno da Matera, buonasera. Ciao, buonasera Cruciani. Dica. Complimenti per la sua trasmissione che mi tiene compagnia tutte le sere quando torno a casa sulla strada fra Bari e Matera. Senti, no, volevo intervenire su questo annuncio che fanno i nostri bravi politici tutte le volte che c'è da coprire qualche buco di bilancio. E se la prendono con gli invalidi, cioè bisogna andare a cacciare soldi dalle tasche dell'invalido o dei presunti tali. Non le sembra un tantino sciocco fare questo tipo di annunci, anche perché tutti i governi hanno fatto questo tipo di annunci negli anni precedenti, però nessuno mai ha tirato bilanci su quelli che sono poi i risultati veri di questa caccia alle streghe, che io così voglio definire. Beh Bruno, perché lei dice caccia alle streghe? Le devo dire anche questo, perché... Scusi un attimo, perché parla di caccia alle streghe? Mi può dire... Un fratello invalido. Beh, sarà un invalido vero, spero. Sì, è invalido vero. Perché allora? È stato oggetto proprio di questo tipo di attività da parte del governo, di un governo di una decina d'anni fa, in cui così, per caso... fu chiamato dalla commissione invalidi della provincia di Matera, c'era un medico che allora giudicò mio fratello una persona assolutamente in grado di badare a se stesso. E allora qual è il problema, Bruno? Perché se suo fratello è invalido seriamente e non è un finto invalido, allora? Abbiamo dovuto sostenere, mi perdoni Luciano, un giudizio contro la commissione tributaria, facendo di nuovo appello a tutta la... Mio fratello poi fu riconsiderato di nuovo invalido, quindi dovette, diciamo, però per 5 anni è stato praticamente assistito economicamente dai suoi fratelli, perché appunto c'era questa caccia alle streghe che ancora un'altra volta all'epoca si scatenò. E io spero che non ci sia di nuovo un'altra caccia alle streghe e che non ci siano altre persone come mio fratello che fu appunto oggetto di un... Guardi, di Bruno, una non conosco la situazione particolare di suo fratello, comunque è giusto fare i controlli perché sì, i numeri parlano chiaro. Grazie Bruno. Emanuele da Napoli, buonasera. Buonasera, signor Cruciani, complimenti. Dica. Sinteticamente volevo dire che per ridurre la spesa pubblica basterebbe ancorare, come fanno le aziende sane, nel momento in cui c'è un momento di crisi e l'azienda dice noi vogliamo andare avanti, raccoglie il personale, dice il prodotto interno lordo, il prodotto della nostra azienda diminuisce di tot e non consente, automaticamente abbattere il costo del personale. Poi entriamo nel merito, che nel settore pubblico oggi, glielo dico a ragion veduta, è più del settore privato. Tutti i dipendenti pubblici che ascoltano, ascoltino, io ero ufficiale di carriera e quando mi laureai avevo l'obbligo di volo, ero sposato e avevo una figlia e prendevo 140.000 lire. Laureato di ingegneria, mi proposero 3 aziende che non mi conoscevano, prendendomi tra i laureati, prendendo il mio nome all'università, e mi proponevano... Sì, però Emanuele, adesso non può elencare tutte le cose della sua vita. Perché ci ha chiamato? Per dirci cosa? Che una volta lo stipendio privato era molto più del settore pubblico. E allora? Ed era giusto che quindi c'erano delle condizioni agevolate. Oggi un sottufficiale guadagna più di un laureato della stessa età nel settore privato, senza rischiare nulla. Quindi questo, i dipendenti pubblici hanno mantenuto intatto il loro stipendio giustamente, allora se si fa una scrematura, poi è chiaro che non si può applicare la stessa percentuale, vanno applicati con raziocinio. Per esempio io dico un provvedimento semplice come i politici parlamentari, tutte le ambasciate che io conosco, quella della Bulgaria, perché ho rapporti con la Bulgaria, dell'Europa Unita, perché non si riducono al rango, visto che siamo un paese unito? Va bene. Certo, va ridotta, ma è significativo. Noi trattiamo l'ambasciata in un paese vicino dell'Europa come se fosse un'ambasciata. Va bene, d'accordo Emanuele, grazie. Massimo da Milano, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Velocemente, allora, premesso che non faccio parte della schiera dei dimissioni subito, galera subito, magistrati subito e quant'altro, sulle dichiarazioni di La Russa, dell'ufficio stampa di La Russa, mettiamola così, dell'altro giorno. Sì. Credo che con tutte le cose, il lessico di La Russa, prima e dopo che fosse ministro della difesa, è legato alla patria, ai valori, l'onore, i soldati e quant'altro, senza fare la demagogia della tristezza e quant'altro, perché giustamente uno fa il militare, poi se non muore è anche meglio, però io sono un ex militare, quindi per il militare va e conosce i suoi rischi. Beh, però credo che sia la frase di... diciamo l'uscita dell'ufficio stampa di La Russa sia assimilabile all'uscita che anni fa fece direttamente, questo è vero, Scajola su Biagi. No, però scusi, sono due cose completamente diverse. No, difatti ho detto, premesso che uno è l'ufficio stampa, l'altro è Scajola. Scajola parlo di... No, ma non solo per questo, anche perché anche in quel caso... Certo. Beh, insomma, no, sono convinto di questo. Però Scajola fece un'uscita, diciamo, di cattivo gusto su un personaggio, non discutiamo del contenuto, della sostanza. Cioè, guardi Massimo, dunque la conclusione secondo lei è che La Russa si dovrebbe dimettere per quel comunicato del suo ufficio stampa di ieri? Secondo me sì, perché se non è in grado di controllare il suo ufficio stampa, che dovrebbe essere il suo megafono volgarmente parlando, non è in grado di controllarlo e quindi la frase l'ha fatta lui, l'ha detta lui dal suo ufficio stampa. Immaginate come ieri, uno come lui, col suo passato e con le cose che dice normalmente sulla bandiera, sull'esercito, sull'onore, sui soldati, dovrebbe dimettersi. Guardi, io non sono in linea di massima contrario al fatto che i ministri giochino più ruoli nello stesso giorno, eccetera. Certo, la giornata di ieri era una giornata particolare, e dunque secondo me è un po' assurdo, surreale trovarsi un comunicato dell'ufficio stampa del ministro della difesa che chiarisce quello che La Russa avrebbe detto, ha detto domenica, credo lunedì, durante la partita Siena-Inter, cioè il Siena si dovrebbe vergognare. Ci teneva tanto La Russa a spiegarlo che evidentemente non ha pensato che insomma non era il caso nella giornata di ieri, e dunque ha precisato il Siena si dovrebbe vergognare non perché ha tentato di vincere la partita, ma aver tentato di pareggiare. Insomma, aveva questi pensieri in testa nella giornata di ieri. Ognuno ha i suoi pensieri. Massimo, grazie. Le dimissioni mi sembrano francamente un po' eccessive, anche se, per carità. Cristian da Milano, buonasera. Buonasera, senta, io volevo dire che la manovrina la stavo aspettando. Qui si parla sempre di tagli, ma mai di evasione fiscale. Allora, se in maniera forte, poi decisa con delle soluzioni, se non sbaglio qui si sembra che l'evasione cubi circa 120 miliardi, mi sembra. Domenica ho visto Report dove parlavano, hanno fatto un focus sugli stabilimenti balneari nel Romano. Allora, qui c'è gente che con terreni del demanio guadagna 1.800.000, 2 milioni di euro all'anno e ne denuncia 400. In più dichiaravano in maniera tranquilla che tutti gli introiti dei lettini eccetera eccetera, tutto nero completo. Ecco, io non so più cosa fare, io sono un dipendente. È ovvio che anche se volessi non potrei fare del nero, comunque denuncio tutto, pago persino il canone, si figuri. Io non so più cosa fare, quindi i politici dicono io non combatto l'evasione fiscale, se no perdo voti, non ho capito cosa devono fare, dobbiamo andare a Montecitorio a prenderli a calci nel culo, io non riesco a capire. Poi si parla di ridurre lo stipendio ai politici, io non sono d'accordo, secondo me un politico in Italia è giusto, equo che guadagni anche 15.000 euro al mese, per il ruolo che riveste. Tutto il più magari parliamo, nessuno l'ha fatto, delle pensioni. Io non riesco a capire perché deve avere una pensione a vita magari dopo 2 anni. Ecco, su quella eliminerei. C'è qualcuno, caro Giuseppe, che propone anche le pensioni non solo per i parlamentari, ma lo vedremo più avanti, per i consiglieri comunali, per i sindaci, eccetera, eccetera. La ringrazio. Michele da Vicenza, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Io ho sentito prima un'intervista che ha fatto, parlato in merito alla dottoressa Santanchè. Io faccio il rappresentante da 20 anni e dico solo una cosa: possono intercettarmi e sentire tutte le telefonate che ho fatto e che farò da qui fino all'eternità. Possono sentire quello che dico alla moglie, ai miei amici e quant'altro. Dovrebbero. Sì, però non si può ragionare in questo modo, altrimenti. Si dà l'idea che si può ascoltare tutto. Il punto è un altro, a parte la Santanchè che parla tecnicamente di intercettazioni, fa un po' ridere. Ma insomma, l'esempio è sbagliato quello che ha fatto la Santanchè. La privacy dei mafiosi, cioè il mafioso che parla con la moglie, con l'amante o con la fidanzata, non ha niente a che vedere con un'intercettazione interessante. Ma a parte, come si fa a sapere il contenuto della conversazione di un mafioso, di un presunto tale, se poi non la si ascolta? Michele, devo dare la linea al giornale radio delle 19, ma torniamo subito dopo. 800 24 00 24. Siamo qui, 19:17, 800 24 00 24, andiamo a sentire come ci presenta la giornata il TG3. Tremonti no a nuove tasse nella manovra, nel mirino falsi invalidi e veri evasori, Italia ai parlamentari dice buoni per l'aperitivo. PDL manovra test per credibilità, opposizione Bersani per capire che cosa c'è dentro, ci vorrebbero gli 007, federalismo e i temori di Bossi. Fini paralisi legislativa, solo decreti, le opposizioni leggi bocciate sul nascere perché il governo dice che non ci sono i fondi. A Kabul autobomba contro le forze NATO, 18 morti tra civili e militari, domani a Roma le salme dei 2 italiani uccisi. Nucleare, USA, Cina e Russia hanno raggiunto un accordo su una bozza di sanzioni all'Iran e discute il Consiglio di sicurezza dell'ONU. Ricercatori, precari, studenti protestano in tutta Italia. Assemblee e occupazioni nelle università. La Gelmini, puntiamo sul merito. È morto lo scrittore Edoardo Sanguinetti, poeta, critico, professore universitario, ha rivoluzionato la scena letteraria degli anni 60. E andiamo a sentire anche Sky TG24. Manovra il piano di Tremonti, taglio della spesa pubblica, ma niente nuove tasse. Nel mirino evasori e falsi invalidi, Bersani chiede chiarezza sui conti pubblici. Camera, allarme di Fini, si rischia la paralisi, federalismo, Bossi preoccupato. Grandi appalti, Zampolini davanti ai giudici, la finanza acquisisce la lista Anemone. Tremano 7.000 presunti evasori, l'elenco di Falciani alle fiamme gialle. Afghanistan, kamikaze a Kabul, 20 morti, in Italia uno dei due militari feriti ieri. La Russia alla Camera, entro l'anno altri 4.000 soldati, più risorse per la sicurezza. Nucleare, la Clinton, sanzioni all'Iran, c'è l'accordo tra Cina, Russia e Stati Uniti. È morto Edoardo Sanguinetti, la cultura italiana piange il poeta dell'avanguardia. Verso i mondiali, Lippi fa fuori Grosso e Candreva, restano 28 giocatori. C'è un Bruno Vespa molto risentito per alcune frasi pronunciate dalla Mussolini tra domenica scorsa e ieri alla Zanzara. Sentite la Mussolini. Quando vedo le posizioni di Vespa, che lui assume la postura, l'atteggiamento del viso, non c'è niente da fare, ma anche in alcune inquadrature è simile, le orecchie, quelle sono identiche. E a tante cose, manca solo l'esame del DNA. Insomma, avete capito? Ieri alla Zanzara Alessandra Mussolini ha detto Vespa è uguale a mio nonno, a Benito Mussolini, e dunque c'è una parentela. Se mi dovessero dire potrebbe essere Vespa, quindi mio zio, il figlio, certo io potrei dire sì, è tal quale. Una volta con papà siamo andati da Vespa porta a porta, io, mio padre e lui, ci siamo fatte le foto tutti insieme, era una cosa ridicola, eravamo tutti della stessa famiglia. Vespa se l'è fatta la foto perché pure lui lo vedeva, la somiglianza era ovvia. Allora Vespa ha risposto in questo modo oggi, piuttosto piccato. Adesso basta, Alessandra Mussolini è una donna spiritosa e simpatica, ma adesso sta esagerando. Finora sono stato allo scherzo, ma da tempo nella mia famiglia sensibilità più attente della mia si sono giustamente risentite. Insistere su una storia che, narici a parte, non ha nessun senso né temporale né logico, diventa offensivo. E poiché sono sicuro che non è questo l'intento della Mussolini, è bene che la smetta. Un Vespa molto molto risentito. E a proposito di Vespa, l'abbiamo visto protagonista ieri sera di un duello con Nicola Porro. Su che cosa? Sull'opportunità di pubblicare o meno la famosa lista di Anemone, pubblicata anche dal giornale. Secondo Vespa, ve la spiego in questo modo, non bisognava pubblicarla perché dentro c'erano nomi che non hanno nulla a che vedere con le indagini e con eventuali episodi di corruzione, eccetera, eccetera. Secondo Porro, invece, siccome ormai ce l'avevano tutti, era diffusa, eccetera, i giornali hanno fatto bene a pubblicarla. Oggi, ma difatti l'abbiamo presentata essere così. Accostati ad Anemone è un peccato mortale, perché voi conoscete benissimo, o dovreste conoscere bene, i meccanismi semplificati dell'opinione pubblica. Va bene? Anemone è il grande corruttore. Cosa facciamo? Non la pubblichiamo? D'accordo? Questa è la domanda. No. Secondo me non la pubblichiamo. No. Noi facciamo no. sì che tutti no. i giornali parlino. No, no, e no, ma tutti. No. Cioè, no. Si prendono otto direttori di otto quotidiani e decidono. Abbiamo un documento, ma non lo pubblichiamo. Scusami, secondo me non era una notizia. Io sarei andato a vedere voce per voce. E infatti Vespa dice: dovevi controllare uno a uno i nomi di quella lista. Allora tu mano a mano cominci dal primo all'ultimo e vai a vedere, toc toc toc, scusi lei sta nella lista di Anemone, che ha fatto panico, oppure non lo so, oppure Pupiavati, aspetti che vedo nei cassetti, eccetera. Abbiamo detto, se no così, ripeto, ma perché questo ha pubblicato alcuni mesi fa, no, ma se Anemone è il grande corruttore, e purtroppo l'evidenza dice che è uno che avesse diciamo, dei sistemi piuttosto disinvolti, tutti quelli che hanno a che fare con anemone hanno la peste. Tu lo sai benissimo, fai il tuo mestiere, vendi più copie, ma questo è un sistema che a me non piace. Scusami, abbi pazienza, non perché metti in difficoltà tantissima gente che non c'entra niente e che si troverà un giorno di fronte a chi quello si è fatto fare i lavori da anemone. Vai a capire se sono per 1.000 euro o per 1.000.000 di euro, vai a capire se l'ha pagato. Non penso che sia la pubblicazione della lista che ha creato una cosa di questo tipo. Se sei in quella lista sei sputtanato per definizione. Ancora Vespa, molto arrabbiato su questo. Mi devi spiegare. Però guarda, non è così. Io quanto avrei voluto che ci fosse il nome tuo qua dentro. Sì. Perché insomma, voglio dire, tu ti trovi qua e ti trovi per definizione sputtanato. Va bene? Eh sì, perché la gente, quando uno sta nella lista anemone, è come se fosse la lista degli appestati. E Porro non è una lista di delinquenti. Io non penso che la pubblicazione della lista abbia creato un problema all'onorevole Lupi, che è lo strumento per dire che non è l'onorevole Lupi, e soprattutto chi ha letto la lista sul giornale ha visto quello che in grande abbiamo scritto: non è una lista di delinquenti. Allora, che dobbiamo fare? Come la sigaretta, nuoce gravemente alla salute. Però le frasi del giorno sono altre. Anzitutto voglio farvi riascoltare questo spettacolare lombardo presidente della regione Sicilia. Sentite, ripeto, non so se scherzi per davvero, però è abbastanza significativo. Lombardo che dice: o vi tesserate o ci date i soldi voi simpatizzanti, consiglieri regionali, politici, aderenti del Movimento per l'Autonomia, ma insomma in generale tutti i partiti, oppure dobbiamo rubare. Quanti hanno fiducia in noi meritano un grande applauso, e soprattutto che noi siamo conseguenziali. Iscrivendoci a questo movimento fate le 30.000 tessere senza risparmiare, anche con la sottoscrizione di chi è consigliere, di chi è assessore, del suo miserabile 10%. L'alternativa è rubare. E sentite anche il modo in cui lo dice: l'alternativa è rubare. Santanché sulla privacy, non è che dice sì alla privacy dei mafiosi come qualche giornale online titola, e però Santanché, lasci perdere la questione dei mafiosi, scelga un altro esempio per sostenere il disegno di legge sulle intercettazioni, Santanché. Se c'è un mafioso che si sta indagando su un mafioso, che senso ha intercettarlo mentre parla con la fidanzata degli atti sessuali che compie o quando parla con la madre? Questo non ha senso, un abuso, ma sono milioni, migliaia di euro che vengono spesi. Per cui voglio essere chiara su questo punto: nessuno vuole eliminare l'istituto delle intercettazioni, strumento fondamentale per capire, ma l'abuso va assolutamente tolto. C'è qualcos'altro? Bobo Craxi contro Sallusti, quasi sull'onda di D'Alema, vuole imitare D'Alema, non ci riesce, ma lo manda a prenderlo in quel posto, sentite. Il G8 o lo facevano così oppure non l'avrebbero mai fatto, e quindi da un certo punto di vista quel sistema ha una sua logica. Quello che non ha una sua logica è questa estensione. Tu eri sottosegretario agli esteri, e quel sistema veniva usato regolarmente tutti i lavori per il G8. Ah sì, certo, sono stato io dagli appalti. No, ho detto che durante quel periodo tu eri sottosegretario agli esteri e voi non avete agito per modificare quel sistema. L'amico Sallusti, ma vai a prenderla in quel posto. Sì, va bene. Non è così. Vai a prenderla in quel posto. E chiudiamo ancora facendovi riascoltare Pannella, perché insomma il Pannella candidato premier, mi ero proposto all'inizio dell'anno per guidare un paese di fronte alla catastrofe, la fotografia del Pannella più recente. All'inizio dell'anno mi proponevo, mi candidavo a presiedere un governo, il governo del nostro paese. Sono non solo disponibile, ma forse anche fisicamente pronto ad assumere le responsabilità del governo della catastrofe italiana per uscirne fuori. Ma voglio riascoltare Lombardo, o vi iscrivete al Movimento per l'Autonomia o dobbiamo rubare. Fate le 30.000 tessere senza risparmiare, anche con la sottoscrizione di chi è consigliere, di chi è assessore, del suo miserabile 10%. L'alternativa è rubare. Simone da Torino, brevemente, cosa ci vuole dire sulla Russa? Mi sembra di capire, Simone. Sì, buonasera, dottor Cruciani. Ce l'ha con la Russa perché ha mischiato il calcio alla morte in Afghanistan. Ma sì, ma non solo, perché inviterei il ministro La Russa, il patriottico ministro La Russa, tra una comparsata alla porta a porta e una dichiarazione sull'Inter, di occuparsi di quei poveri militari come i due che sono morti. Beh, oggi ieri, se ne è occupato la Camera, anche ieri, non è che non se ne è occupato. Ha sbagliato, sì, però, ha sbagliato ieri durante una giornata a fare quella dichiarazione. Dottore, mi collego anche alla proposta Brunetta di bloccare i contratti. I militari, come i poliziotti, i finanzieri, i carabinieri, hanno i contratti bloccati dal 2008. Sì, però Simone, a me del contratto bloccato dei militari in questo momento non me ne frega niente. Parliamo di La Russa, mi scusi, con tutto rispetto per i militari. Sì, qual sì, è no, il punto? No, ma appunto, ma La Russa di queste cose non se ne occupa. La Russa fa adesso la retorica. Non lo so se non se ne occupa, se ne occuperà pure del contratto dei militari. Insomma, mi dica qualcosa sulla frase di ieri su Siena Inter piuttosto che sul contratto dei militari. No, il problema è che a me il calcio non mi importa. A me mi importa di ben altre cose, molto del più contratto concrete. Dei militari. Vabbè, allora ci sentiamo dopo la borsa. La Zanzara. Siamo qui 19:34 800 24 0024. Eravamo con Simone da Torino. Buonasera. No, appunto dicevo che mi piacerebbe un ministro facesse il ministro, non solamente pensasse all'amenità, all'Inter, a andare in televisione. Qua dicono c'è la crisi, blocchiamo i contratti, poi i militari stanno i contratti da 2 anni e mezzo fermi, va bene, tutto ok, però allora non sprechiamo parole con la retorica, i nostri ragazzi, tutto quanto, perché ai ragazzi che sono all'estero, i poliziotti, ci pensano solamente quando sono nella cassa da morto, a quelli vivi non ci pensano, pensano all'Inter, pensano ad altri. Simone, militari. Ma lei fa il militare, ma certo, familiari certo. Che fanno i militari, ho no, capito, no, ma non è che mi può parlare... Sì, ho capito, ma insomma il problema qui non è il sindacalismo dei militari adesso, i contratti dei militari, abbia pazienza, il problema è un altro, perché la critica, ma a me, guardi Simone, perché io ho grandissimo rispetto dei militari, qui però la questione è un'altra, il ministro della difesa ieri, che era una giornata di contrizione, di lutto, eccetera, eccetera, cosa ha fatto? Ha trovato il modo, ha trovato il tempo per far fare un comunicato al suo ufficio stampa in cui ha pronunciato certe parole sulla partita Siena-Inter, dicendo che la vergogna riferita al Siena non era perché aveva cercato di vincere, ma perché aveva cercato di pareggiare. Insomma, ha cercato di specificare questo concetto, francamente un po' ridicolo, o no? Sì, no, certamente. Appunto dico, una volta almeno c'era la retorica, adesso non c'è manco più quella. Mm. Cioè, direttamente si pensa alle... No, c'è sia la retorica che Inter Siena. Va bene, grazie. Andiamo a Giovanni da Napoli. Buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Salve. Sa cosa temo con questa storia degli stipendi? Cosa temo? Che si generi l'effetto Clinton, quello cioè di un dipendente dello Stato che per anni prende poco, diciamo per 8 anni, e dopodiché inizia a fare conferenze e inizia a guadagnare milioni e milioni di euro, grazie a che cosa voi? Associazioni, fondazioni? No, scusi Giovanni, non ho capito niente, iniziamo bene la serata, ma non ho capito niente di quello che lei ha detto. Cosa significa? Teme l'effetto di cosa? Magari si facesse come in America, a un certo punto uno finisce dopo 8 anni di fare politica, più o meno. E poi che succede dopo? Ma ho capito, ma Giovanni, qual è il punto? No, è che poi questa gente, voglio dire... Può essere la mercé di imprenditori, industriali. E dunque? E il suo ragionamento qual è? Vabbè. Le sembra giusto? Voglio dire. Ma che cosa mi sembra giusto? Giovanni, non ho capito qual è la premessa. Tenda a ridurre i costi della politica. Ah, ho capito. Come stipendi. Ma guardi, no, non lo so, Giovanni, un po' bisognerebbe limarli, non c'è dubbio, che poi... si possa arrivare all'estremo come ha fatto quel consigliere regionale del Piemonte che ha deciso di ridursi lo stipendio fino a 2.000 euro, forse è esagerato, perché lei ha ragione, insomma i parlamentari eccetera devono guadagnare anche per poter fare quel mestiere in maniera degna, o no? Certo, però voglio dire c'è un rischio oggettivo. Lombardo è stato, vabbè, fuori luogo, eccessivo, però c'è un rischio obiettivo poi che... E qual è il rischio? Il rischio che poi questa gente possa essere indotta a comportarsi in maniera... Non ha un'autonomia finanziaria, è più soggetto a pressioni esterne. Sì, no, non mi sembra che gli alti stipendi abbiano frenato gli affarismi o l'affarismo di alcuni politici. Grazie Giovanni. Stefano Andreoli, Spinoza.it, cosa ci offri? Eccoci qua, buonasera di nuovo. Dunque, qualcosina sulla legge Bavaglio. Primo sì alla cosiddetta legge Bavaglio contro le intercettazioni. Finalmente la mafia tornerà a non esistere. Secondo la Santanchè, registrare i colloqui tra i boss e i loro familiari significherebbe violare la privacy dei mafiosi, per non parlare poi di quando li arresti. E beh, certo. Gli ascolti non potranno superare i 75 giorni, trascorsi i quali gli inquirenti saranno autorizzati a trascrivere quello che ricordano. Fantastico, poi? Ovviamente il limite è 75 giorni, se no a trovare il colpevole sono capaci tutti. Grazie alla nuova legge, poi, per non venire accusati, basterà parlare dei reati in forma ipotetica. E se ti corrompessi, accetterei. Grazie, ciao Stefano, ciao, a più Giuseppe, tardi. Ciao. Michele da Vicenza. Eccoci qua, buonasera. Dica. In merito proprio alle intercettazioni, volevo dire proprio la perla di saggezza è stata detta dalla Santanchè. Io mi riferivo a un argomento un po' più ampio, nel senso, come avevo anticipato prima. Se io non ho niente da nascondere, lei mi può fare la domanda, può essere intercettato, potete intercettarmi 24 ore al giorno, potete tenere sotto controllo il mio telefono da 15 anni a questa parte, io non ho niente da nascondere, lei ha qualcosa da nascondere, dottor Cruciani? No, sicuramente no, Michele, ma questo non è un buon motivo per intercettare tutto e tutti sempre, eh? Non dico che si fa adesso, che così si fa adesso, però insomma non è un buon motivo per non intervenire su una, se è il caso di intervenire in un settore, no? Diciamo che in questa fase la politica, e questo è l'esempio purtroppo di quello che accade in questi ultimi anni, abbiamo visto che ha dato degli classici esempi di quello che potevano essere le intercettazioni, dei controlli, o meglio anche delle altre, diciamo, controlli fatti su, come nel caso adesso di Anemone, e sono emersi dei fatti legati il punto secondo me è molto semplice. Non bisognerebbe intervenire sulla materia dal punto di vista legislativo per limitare le intercettazioni. Bisogna intervenire non nel modo in cui viene proposto. Abbiamo sentito prima Stefano Andreoli parlare della legge Bavaglio, secondo me è un termine un tantinello esagerato, ma in ogni caso il disegno di legge così come è presentato oggi secondo me non va assolutamente bene. E però qualche cosa per quello che riguarda la pubblicazione bisogna fare, ripeto, non nella direzione dell'attuale disegno di legge, ma qualcosa bisogna fare. Grazie. Vincenzo da Roma, buonasera. Sì, buonasera, salve dottor Cruciani. Senta, forse il mio sarà giusto uno sfogo, ma riguarda il discorso dell'evasione fiscale. Sì. O la ricerca dei falsi invalidi. Ok, io le chiedo, ma non dovrebbe essere una prerogativa di qualsiasi governo, di qualsiasi persona, cercare il marcio, quindi fare le ricerche sui falsi invalidi, dovrebbe essere fatto sempre, non solo in un momento di crisi. La lotta all'evasione fiscale è un problema storico dell'Italia. Io frequentavo l'università e c'erano dei ragazzi 19enni che prendevano le borse di studio perché dichiaravano e vivevano con la nonna, sì. E poi in realtà stavano imbarcati di soldi. Oggi uno scrittore sulla stampa, Antonio Scurati, ha proposto, se non sbaglio, di togliere il diritto di voto agli evasori fiscali, naturalmente quelli accertati. Domani Bianco e Nero con Alessandro Milan su questo tema, peraltro. Lei è favorevole, sarebbe favorevole, Vincenzo? Io penso che al momento dovremmo ricercare i soldi che sono tanti nascosti. Poi possiamo anche togliere il diritto al voto. Io penso che in questo momento, ma come sempre... No, ho capito, se uno trova un evasore fiscale, secondo lei è giusto togliere il diritto di voto oppure no? Naturalmente dipende che tipo di evasione fiscale è, ma insomma questo è savasandir, come dire. Su due piedi così devo rispondere giusto o no, dico che è giusto. Grazie. Giuseppe, provincia di Rimini. Sì, dottor Cruciani, buonasera. Volevo intervenire in merito alla prossima manovra finanziaria da 25 miliardi. Si è parlato di riduzione del 5% degli stipendi ai parlamentari. Io ritengo che questa percentuale sia davvero, davvero irrisoria. Invece ritengo che sia opportuno corrispondere ai nostri parlamentari uno stipendio uguale a quello che percepiscono i parlamentari di altri paesi europei. A me risulta che i nostri parlamentari guadagnano circa una forchetta dal 30 al 40% in più rispetto ai paritetici di altre nazioni importanti. Anche, poi, se, anche se alcuni fanno distinzione tra il netto, i forfè dei rimborsi, eccetera, comunque, eccetera. Sono i più pagati, questo credo che sia indiscutibile. In più si parla di contenimento della spesa pubblica. Cosa ne pensano di evitare di far nascere, ad esempio, la provincia di Trani Andrea Barletta, la provincia di Fermo? Se si dice che non si può incidere, non si può intervenire sulle province che già sono operative, perché ci sarebbe tutto il problema del personale, quindi il risparmio sarebbe minimo, perché non iniziare da queste che devono ancora nascere? In più, insomma, è un processo già avviato, è complicato fermarlo. Comunque sì, sarebbe il caso, Giuseppe, sarebbe il caso. Le regioni a statuto speciale, i politici di queste regioni hanno stipendi elevatissimi ed è risaputo. Perché non ridurre lo stipendio a questi politici? Sì, ripeto, però Giuseppe, intervenendo solo sulla sulla questione degli stipendi dei parlamentari o degli emolumenti dei parlamentari, come ha, ripeto, giustamente spiegato ieri Luca Ricolfi in un articolo sulla stampa, si risparmierebbe molto poco. Per cui non vi concentrate troppo sulla questione dello stipendio dei parlamentari, anche perché Tremonti, lo avete sentito prima durante Focus Economia, ha detto, insomma, è solo l'antipasto il 5% della riduzione dello stipendio dei parlamentari e dei ministri. Va bene, Lucia Codurelli, buonasera. Sì, buonasera. Com'è, buonasera. Condurelli o Codurelli il suo cognome? Codurelli. Lucia Codurelli, parlamentare del Partito Democratico. Senta, mi deve rassicurare su una cosa, signora Codurelli, che la vostra proposta, quella fatta insieme a altri due deputati, sempre del PD, non vuole assicurare il vitalizio anche ai politici locali, perché così è passata oggi su Repubblica, mi tranquillizzi. No, io la tranquillizzo e sono anche molto arrabbiata per questa disinformazione anche voluta, e questo veramente mi dispiace, perché oramai credo che non si fa altro che sparare. Cioè, secondo lei Antonello Caporale su Repubblica ha disinformato? No, disinformato non credo, probabilmente non ha voluto approfondire, altrimenti non avrebbe scritto quelle cose, a meno che se si voglia ormai continuare ad alimentare queste polemiche, questo credo che non aiuti nessuno, cioè, allora io riepilogo il titolo oggi di una della rubrica di Antonello Caporale su Repubblica Piccola Italia, era questo: un vitalizio per tutti i politici, la proposta c'è e va avanti, pensione e di fine carriera non solo per i parlamentari ma anche per i politici locali. Assolutamente nessuno deve dire che questo è falso, basta prendere assolutamente il provvedimento e leggerlo, che è una proposta di legge dove assolutamente è anche nata una cosa semplice per un minimo di giustizia, proprio anche oggi per il mercato del lavoro, sappiamo qual è la precarietà, le aziende che chiudono e sono tante, soprattutto al nord, sono una, io che provengo dal nord, dove credo che anche le amministrazioni siano state tagliate in questo senso con difficoltà. E quale sarebbe la proposta? La proposta è nata perché dopo anche una mia interrogazione fatta l'anno scorso per far sì che un sindaco attualmente ancora in carica nel secondo mandato era in mobilità, la fabbrica aveva chiuso. Lui stranamente, lui come possono essere altri, finché è in aspettativa come un assessore c'è la legge che permette il versamento dei contributi figurativi come previsto dalla legge. Nel momento in cui la fabbrica chiude, il comune, l'ente locale non lo può più fare perché manca lo strumento, qualsiasi riferimento, anche pur avendo nel 95... No, mi scusi un attimo, adesso non ricapitoliamo tutti i passaggi legislativi, però il punto è un altro. Lei la proposta tende a ad assicurare al sindaco o all'assessore... È un assessore di un comune più grosso, che normalmente i comuni piccoli gli assessori non sono in aspettativa. Ad assicurare che cosa? Mi scusi, se nel caso in cui l'azienda fallisce? In questo caso, il caso proprio emblematico, per cui da lì poi è nato uno studio e ci siamo accorti che la cosa è molto, che va anche al di là di un ragazzo che ha un contratto a tempo indeterminato. Io non ho capito cosa volete assicurare al sindaco o un assessore. No, allora, nel momento in cui uno è sindaco e chiede l'aspettativa per poter svolgere la propria funzione per un comune abbastanza grosso, che l'aspettativa vuol dire che il locale versa i contributi figurativi invece dell'azienda, perché è in aspettativa, li versa quello che avviene normalmente, contributi di quell'anno, 2 anni, 3 anni che lui rimane fuori dall'azienda per svolgere appieno il proprio lavoro di amministratore. Sì, questo accade anche oggi. Prego? Questo accade anche oggi? Ma questa è una legge. È una legge, benissimo. Allora, e voi che cosa volete fare? Non ho capito bene. No, questa ci siamo accorti che nel momento in cui una fabbrica, la fabbrica chiude o per una serie di ragioni, viene meno la possibilità, non c'è più la possibilità per il comune, prima lo versa, non c'è più la possibilità di versare perché manca lo strumento legislativo che preveda rispetto al fondo complementare delle pensioni di poter versare. Basta, semplicemente questo. Sì, però mi scusi, quando un cittadino semplice vede fallire la sua fabbrica, eccetera, non è che ha diritto a questa cosa? No, ma non è la diritto. Cioè, il problema, le voglio spiegare, che se il comune, uno è sindaco per 5 anni, giusto? Sì. Per 5 anni. Se lui è fuori dalla fabbrica, la fabbrica non versa. Sì. E poi rientra in fabbrica quando ha smesso di fare il proprio lavoro, sì. Oppure cambia e lavoro. Chi versa in questi 5 anni chi versa i contributi? Prego? In questi 5 anni i contributi chi li versa? Li versa l'ente locale. L'ente locale. La legge che ci sono è quello che sta avvenendo. No, vabbè, ma io adesso sono ignorante su questo. Allora poi invece voi che cosa prevedete? Noi prevediamo che per quei momenti che si dovessero assolutamente, perché viene meno la fabbrica che chiude, piuttosto che uno che termina il suo contratto ma fa il lavoro di sindaco che continua fa il suo svolge il proprio lavoro nel momento in cui è stato eletto, che i contributi figurativi possano essere versati anche in mancanza di avere alle spalle la fabbrica o il posto di lavoro precedente. E perché questo qua dovrebbe essere un diritto del sindaco o dell'assessore? Non sentiamo più nessuno. Va bene. Antonio da Lodi, era molto complicato il discorso. Antonio da Lodi, buonasera. Buonasera. Io volevo commentare brevemente le frasi di Pannella che mi ricordano il Salieri di Milos Forman alla fine, quando era delirante, che intercedeva per tutti i mediocri del mondo. Io sono affezionato a Pannella, l'ho anche votato in gioventù, però veramente mi sembra in una fase di crollo verticale. E invece per quanto riguarda la Russa, segnalare semplicemente il fatto che un ospite fisso del processo di Biscardi non è che si possa aspettare di più. Tutto qui, ecco, per cui solo questo. Cioè, sull'Inter lei dice è normale che la Russa possa intervenire anche in un giorno di lutto per l'Italia. Sì, ma cioè no, insomma, con lo spessore è quello, per cui non è che non mi aspetto di più, purtroppo. Cioè, il panorama è desolante e niente di nuovo, ecco, purtroppo. Non mi aspettavo dei colpi d'ala particolari dal ministro La Russa. Ecco. Ma no, ma non è questione di aspettarsi dei colpi d'ala, Antonio. È questione magari di aspettarsi che in una giornata come quella di ieri uno non facesse un comunicato sì, su Siena Inter. Uno ha delle aspettative da qualcuno che ha spessore. Se uno non ha spessore, ripone male le aspettative. Però secondo me in questo caso lo spessore non ha niente a che fare. Qui si tratta, lo spessore è una questione di gusti, anche di simpatie politiche, eccetera, eccetera. Adesso non so valutare lo spessore di... E io sono un ex votante del centrodestra. Sì, ma adesso non è questo il punto, Antonio. Ripeto, sullo spessore ognuno può avere la sua idea, sulla Russa, ministro della difesa o su altri politici. C'è un errore di comunicazione, secondo me, clamoroso nella giornata. Ah, beh, ma senza dubbio. Poi che si possa valutare da questo lo spessore, non lo so. No, spessore umano, intendo dire, non politico, il spessore umano. Cioè... Guardi, che la Russa non abbia a cuore la sorte dei militari, su questo no, mi sembra, per l'amor del cielo, mi, ma sembra che... mi sembra esagerato. Che no, ieri, no, io non dico quello, però che ieri qualcuno in modo così disinvolto da una tragedia alla questione di calcio, e questo dà il segno dello spessore, questo che voglio dire. Guardi, oggi il Riformista pubblica un commento in prima pagina che voglio leggere. Nel giorno della morte di un soldato italiano, il ministro della difesa russa si è giustamente rifiutato di intervenire nella polemica da lui aperta sulla squadra del Siena, che aveva invitato a vergognarsi per essersi opposta con troppa foga all'Inter. In compenso, il suo ufficio stampa ha emesso ieri un comunicato per precisare il pensiero del ministro sulla delicata questione e per spiegare che la Russa accusa il Siena non già di aver tentato di vincere la partita, ma di aver tentato di pareggiarla. E a questo punto ci vergogniamo noi per lui. Lei pure si vergogna di questo oppure la vergogna? Penso proprio di sì. Va bene, Antonio. Marco da Milano, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Mi volevo riagganciare, anche se probabilmente non è proprio l'argomento del giorno, al discorso della riduzione dello stipendio del parlamentario, comunque al blocco degli stipendi degli impiegati statali per partecipare alla copertura della finanziaria. E anche in virtù di quanto detto, credo, ieri sera da Sergio Rizzo alla vostra trasmissione, è palese che gli importi che ne sarebbero ricavati sarebbero assolutamente trascurabili rispetto all'importo della finanziaria in totale. In aggiunta a questo rimango perplesso perché a una trasmissione domenica sera Report, in maniera molto, come posso dire, stupida secondo me, quando il giornalista di Report ha cercato di si è inserito in una potenziale transazione per un bagno, per una spiaggia attrezzata, l'attuale proprietario liberamente si è lasciato andare all'affermazione tipo non ti preoccupare, qua facciamo 800.000 euro, adesso non mi ricordo quant'era, o 600.000 euro di nero. Quindi probabilmente non è la direzione corretta quella della la riduzione del 5% dei parlamentari, insomma, ci sono probabilmente direzioni diverse in cui a cui la finanziaria potrebbe indirizzarsi per ricevere maggiori finanziamenti. Ma questo è scontato, Marco, che la riduzione del 5% dei parlamentari non è che porti a granché. Ma anche il blocco degli stipendi degli impiegati statali. Cioè, quello è un altro. Domenica c'era un impiegato che dopo 20 anni di lavoro guadagnava 1.400 euro al mese. Vabbè, ma non è quello l'esempio, Marco. Su, se uno prende come esempio i 1.400 euro di un dipendente pubblico, non è quello però. Si parla di altre cose, immagino si parlerà di retribuzioni un po' più alte per quello che riguarda gli statali. Grazie. Ma anche consideriamo i 15.000 lordi di quel parlamentare con cui avete parlato l'altra sera. Straguadagno, qualcosa sì, del genere. Allora? No, intendo dire anche il 5% di 15.000 euro per andare, cioè sono effettivamente importi che lasciano un po' il tempo che trovano, no, paragonati all'importo della finanziaria. Su questo non c'è dubbio. Grazie. Stefano da Roma, buonasera. Buonasera, dottor Cruciani. Dica. Niente, volevo farle una domanda. Cioè, secondo me il ministro Santanchè, diciamo... Non è ministro Santanchè, non è ministro. Sì, chiedo scusa. La Santanchè comunque dice su cose futili riguardo alle intercettazioni. Io volevo esprimermi riguardo a queste, alle intercettazioni. Secondo me, diciamo che non limita solo le cose futili questa legge che stanno proponendo, in quanto si parla di gravi indizi di colpevolezza e quindi penso che oltre a coprire quelli si coprono anche altre cose gravi, per esempio come quello di Scaiola, di Anemone. Volevo sapere... Scusi, che c'entra Anemone e Scaiola? Lei dice che approvando questa legge, a parte che mi sembra nella vicenda di Scaiola, di Anemone, le intercettazioni non hanno molta rilevanza, ci sono piuttosto delle carte e la lista prodotta dalla Guardia di Finanza. Comunque, in quel caso le intercettazioni non c'entrano. Comunque, in ogni caso, lei dice molte inchieste di cui si legge, eccetera, non potrebbero essere fatte se venisse approvata la legge così come è fatta. Sì, è vero? Sì, è questo. Volevo sapere un suo pensiero. Pensiero sulla Santanchè mi sembra di essere stato molto chiaro. Cioè, come si fa a parlare della privacy dei mafiosi? Sono esempi che non stanno né in cielo né in terra. Il mafioso che parla con la moglie, che parla con l'amante, cioè, sono cose dell'altro mondo. Lo voglio fare risentire perché insomma è un pezzo anche di comicità involontaria eccezionale. Santanchè sulla privacy dei mafiosi. Se c'è un mafioso che si sta indagando su un mafioso, che senso ha intercettarlo mentre parla con la fidanzata degli atti sessuali che compie o quando parla con la madre? Questo non ha senso, un abuso, ma sono milioni, migliaia di euro che vengono spesi. Per cui voglio essere chiara su questo punto. E questa era la Santanchè. Qualcuno propone la Russa dopo le dichiarazioni che ha fatto su Siena Inter non dovrebbe andare alla finale di sabato, perché i funerali di Stato eccetera eccetera, non dovrebbe andare alla finale di sabato dell'Inter. Questo mi sembra particolarmente punitivo nei confronti del tifoso da Russa. I telegiornali tra poco. 800 24 00 24. La Zanzara. Siamo qui alle 20 in punto con una notizia appena arrivata e battuta dall'ANSA, che naturalmente ha bisogno di conferme, ma è una notizia che riguarda il mondo dell'informazione e, se vogliamo, anche la politica. Santoro lascia la RAI, questa è la notizia. Santoro lascia la RAI, accordo consensuale con l'azienda. Questo un lancio dell'agenzia ANSA di 2 minuti fa. I titoli del TG5. Nessun aumento delle tasse, ridurremo il peso della mano pubblica. Tremonti e la manovra, nel mirino falsi invalidi e veri evasori. Bomba dei talebani contro la NATO e strage a Kabul. Domani in Italia le salme degli alpini uccisi. In carcere da 6 mesi per l'omicidio di una collega. L'infermiere è sospettato di essere il serial killer delle cliniche a Roma, ma l'avvocato dice non è lui. Condannati i genitori che tolsero l'insulina alla figlia diabetica su consiglio di una curatrice americana. La ragazza morì. Multe a strascico a Milano, sulle volanti della polizia un dispositivo per multare le auto in doppia fila, sulle gazzelle dei carabinieri un computer. Lippi al TG5, gli azzurri meritano fiducia, faremo e daremo il massimo, il CT lascia a casa Grosso e Candreva. Vabbè, a proposito di satira, è bellissima anche questa che ci ha mandato un ascoltatore dopo le ultime dichiarazioni di La Russa. È stato contattato il ministro della difesa da Moratti per sostituire Mourinho. TG1. Tremonti, con la manovra non aumenteremo le tasse, preserveremo i più deboli, nessuno stravolgimento per le pensioni. In volo per l'Italia le salme degli alpini uccisi in Afghanistan, strage a Kabul, La Russa, fine anno 4.000 soldati. Clinica del serial killer in una struttura vicino a Roma, sarebbero avvenute morti sospette attribuite a una sola mano. Mondiali di calcio nel mirino di Al-Qaeda, arrestato in Iraq miliziano saudita che progettava attentati durante le partite. Continua la caccia al coccodrillo fantasma, oggi sul lago di Falciano, grande battuta ma resta il mistero. Minestrone e verdure no grazie, la classifica dei cibi più odiati, la pasta resta il piatto preferito, piace il kebab. Addio ad Edoardo Sanguinetti, è morto a Genova uno dei grandi della letteratura del dopoguerra, scrittore e critico. Se quando ha messo i capelli finti a Berlusconi sulla copertina di Panorama, questo è stato un gesto così spontaneo oppure dipende in qualche modo al conflitto di interessi? Io non ho allungato i capelli di Berlusconi. Ma è stato anche processato dall'ordine dei giornalisti. Sono stato anche assolto. Perché la piaggeria non è un delitto, era la sentenza. Questa era Sabina Guzzanti versus Carlo Rossella ieri sera 8:30. Il Consiglio di amministrazione della RAI ha approvato, su proposta del direttore generale Masi, un accordo quadro con il giornalista Santoro per la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dipendente. L'accordo consensuale deve essere implementato attraverso contratti applicativi che saranno messi a punto. Quindi la RAI continuerà ad avvalersi della collaborazione di Santoro, che in questo modo avrà la possibilità di sperimentare nuovi generi televisivi attraverso un ulteriore sviluppo del proprio percorso professionale. Qui non si capisce bene cosa significa questa cosa, la risoluzione del rapporto, cioè non sarà più dipendente. Vedremo. Blob. Qual è? Eccolo qua, il decoder è un oggetto semplicissimo e quasi anche all'area simpatica, si può acquistare da 19-20 euro in su, con 19-20 euro potete acquistare questo con il quale continuerete a vedere Rete 4 e questo telegiornale, se ci sono i televisori che hanno già incorporato il decoder e quelli cosiddetti di vecchia generazione non hanno incorporato e dunque bisogna comprare il decoder, che è facilissimo da comprare, facilissimo da mettere in uso. Che cosa vuol dire che senza questo decoder, vediamo la prossima immagine, eccola qua, senza il decoder non ci vedrete più. Beh, è strepitosa la pubblicità di Fede al digitale terrestre, che come sapete oggi ha comportato diversi problemi per Rai News 24, con proteste perché pare che ci sia un oscuramento in atto, credo e spero non voluto da nessuno. Dove andiamo? Problemi tecnici che si possono incontrare, certo, andrebbero evitati perché insomma si sapeva di questo passaggio in Lombardia, ma la questione di Rai News 24 non riguarda solo la Lombardia. Calogero da Vicenza, buonasera. Sì, buonasera. Volevo fare un intervento in merito agli evasori totali. Io sono un medico del Sistema Sanitario Nazionale e proponevo di impedire che venissero curati dal Sistema Sanitario Nazionale gli evasori totali, come peraltro è stato proposto di far sì che noi non possiamo curare i clandestini. Vabbè, questo mi sembra un po' esagerato, Calogero. Cioè, addirittura gli evasori totali, solo quelli totali, secondo lei non andrebbero curati? Non contribuendo comunque... Sì, ho capito, come si fa? Cioè, ce l'hanno scritto in testa. Sì, la mia è comunque una proposta un po' provocatoria. No, questo l'ho capito, naturalmente, però bisogna anche poi concretamente pensare a come si applicano certe cose. Lei dice, vabbè, è solo una provocazione, siccome qualcuno ha proposto di togliere il diritto di voto, perché non togliamo il diritto di curarsi? Sì. Vabbè. Lascia un po' il tempo che trova comunque. Ah, vabbè, ma ho capito. La Russa, prossimamente 4.000 soldati in Afghanistan, è un acquisto pesante per il centrocampo dell'Inter, anche questa non è male. Enrico, provincia di Pesaro, buonasera. Sono di Bologna, comunque la stessa cosa, dottor Cruciani, buongiorno. Buonasera, dica. No, io volevo proporre un po' una provocazione, comunque una revisione generale di tutti gli stipendi e del tetto, cioè per tutte le varie categorie è a caduta libera, come si, tutti parliamo sempre degli europarlamentari che prendono, diciamo in alcuni casi rispetto ad altre nazioni anche il triplo, i parlamentari prendono una media circa del doppio, e poi scendere il presidente di regione, con calma, a gradi, presidenti di provincia, giudici, primari, direttori sanitari, dirigenti, e così non si potrà più dire innanzitutto, ma tanto è un 5%, non serve poco, se a caduta libera questo viene rivisto per tutti quanti, e ci sono stati dove... No, però mi scusi, secondo quale criterio? Non ho capito, sì. Riduzione del 5% degli stipendi per tutti, ma per chi concretamente? No, non il 5%, europarlamentari e parlamentari. Sì, Enrico, d'accordo, ripeto, non è la panacea di tutti... Non europeo, sì, europeo. Lei dice bisogna rivedere lo stipendio dei parlamentari. No, ma non solo dei giudici, perché un giudice, un magistrato in Francia non prende come il nostro. E un primario la stessa cosa. Non un attimo solo, Blob. Accenno anche lì a Milan Inter, l'onorevole Cossutta. Me l'abbiamo battuta per tanti anni, bisognava chiudere, non parliamo sul tirare un perché po' il numero degli scudetti, il numero delle vittorie, sappiamo da che parte sta. Scusi, ma sul piano calcistico lei non può continuare a dire delle cose contrarie al vero. Il numero degli scudetti nostro è 15 e il numero delle vittorie internazionali nostro è incomparabile con le vittorie dell'Inter. Io la grande non posso Inter, lei se la sogna ancora. Perché per ci sono tanti interisti che votano parliamo per noi. Di politica. Scusate, vogliamo chiedere un una posso. Testimonianza ma anche parliamo di politica l'abitudine a mentire è assoluta. Allora scusate, vogliamo chiedere una testimonianza diretta a due fratelli che queste cose le sanno? Rocco, allora, te vabbè, era uno splendido duello a porta di qualche anno fa tra Silvio Berlusconi e Armando Cossutta, i quali parlavano di Milan e di Inter, e con Berlusconi che e diceva voi una sorta di processo del lunedì. Andiamo ancora con chi eravamo? Eravamo con sì, con Enrico. Allora, Enrico. Mi stavo dicendo appunto di una revisione generale di tutte le categorie, perché non si vede per quale motivo un giudice da noi abbia uno stipendio in Francia e in Spagna un altro diverso, molto molto molto più basso. Un primario ospedaliero, io ho un cognato primario, un altro carissimo amico direttore sanitario, mi dicono anche loro, ma poi se si può documentare, gli stipendi nostri dei dirigenti generali sono notevolmente più alti, quindi una revisione a caduta libera di tutti gli stipendi, ma non per ammazzarli, ma per renderli, diciamo, giusti, perché si parla sempre del parlamentare perché è un esempio, perché, dottor Cucian, diciamo le cose, che il dramma è che noi, che la maggior parte dei politici, della gente che conta, che può parlare, che tira le redini, parla e non ha la minima idea di che cosa voglia dire vivere veramente con 1.500. Sì, questo può darsi, però Enrico, vorrei sapere, lei che cosa propone? Perché ancora non l'ho capito, lo sa, lei è due minuti che parla, io non ho capito la sua proposta. Tutti gli stipendi. Quali? Di chi? Di quali categorie? Tutti? Tutte! Ma guardi che spesso c'è il privato, non è che si può privato, intervenire sul privato. Parlo del pubblico, benissimo. Del cosa farebbe lei? Ma voglio dire, io non sono un economista, c'è Tremonti. Cioè lei dice la media europea dei magistrati è tot, riduciamo, ma non si può fare, non si può fare. Ma viene fuori un numero di persone stratosferico, non sono i 1.000 di cui si parla, diciamo il parlamentare, viene un numero di persone, le giunte, provinciali, regionali, comunali, viene un numero stratosferico. Ma lei sta parlando dei politici allora? Ma io parlo dei dipendenti comunali, se vogliamo dire, dei dipendenti, scusi, degli statali, un magistrato, uno statale. Un dirigente di USL, anche lui. Dunque, lei dice bisogna rivedere secondo parametri europei gli stipendi dei dipendenti pubblici, di tutti i dipendenti pubblici. Ho capito. Enrico, adesso devo dare la linea alla pubblicità, torniamo subito dopo. La Zanzara. Fate le 30.000 tessere senza risparmiare, anche con la sottoscrizione di chi è consigliere, di chi è assessore del suo miserabile 10%. L'alternativa è rubare. Alessandro, provincia di Grosseto. Buonasera, Cruciani. Dica. Allora, no, chiamavo per la russa. Sì. Diciamo, vabbè, stendiamo subito un velo pietoso sul comunicato dell'ufficio stampa, perché io tra l'altro... sono un coordinatore di ufficio stampa, quindi se fosse uscito dal nostro, se avessimo diramato noi un comunicato così delirante, sarei stato cacciato a pedate dal mio presidente. Che sta succedendo qui? Sgarbi contro Lannutti, che succede? Quella è la verità, allora, non perdiamo tempo. Fermo la no, adesso arriviamo. Voglio sapere perché Di Pietro è complice dei mafiosi. Allora, voglio sapere perché. Non è complice di nessuno. No, perché mette le paleoliche che distruggono il paesaggio italiano? Perché l'avete messo? Vergognati. Sono tanti che hanno pagato perché Di Pietro va. Voglio arrivare anche a lei. Perché il manifesto dei tuoi paleoliche? Ci sono quelli che pagano, allora non facciamo i nostri. No, dico, complice della mafia. La mafia delle eoliche l'ho denunciata io. Avete messo le donne combattete, siete complici. Noi le paleoliche sono la peggior catastrofe che ha fatto la mafia negli ultimi 10 anni. E voi siete complici di questo. Ma noi con le paleoliche? Ce l'hai messo nel tuo manifesto. Ho capito, è la battaglia di Sgarbi sulle paleoliche che si è trasferita al Fatto del Giorno. Oggi su Rai 2 ce l'aveva con Lannutti, che è dell'Italia dei Valori, dando a Di Pietro del mafioso. Siccome Di Pietro è favorevole alle paleoliche, ma anch'io per esempio sono favorevole alle paleoliche, eppure non mi sembra di essere connivente con la mafia. Ma questa è una battaglia che Sgarbi porta avanti da tantissimo tempo. Ma non è che tutto il business, come dice Sgarbi, delle paleoliche ovunque in Italia sia un business mafioso. Sicuramente ci saranno state delle infiltrazioni in alcune regioni, in particolare in Sicilia, che è un posto che Sgarbi conosce ancora da Blob Guzzanti. Poi torno con l'ascoltatore. Questo è così spontaneo oppure dipende in qualche modo dal conflitto di interesse? Io non ho allungato i capelli di Berlusconi. Ah, era Rossella sui capelli di Berlusconi, ma abbiamo il traffico. Torno subito, Alessandro, torno da lei, provincia di Grosseto. La Zanzara. Eccoci, 2017 800 24 0024. Eravamo con Alessandro da provincia di Grosseto sulla Russa, sul caso La Russa. Prego. Eccoci qua. Stavo dicendo appunto, io sono il responsabile di un ufficio stampa di un ente pubblico. Dico, avessi diramato io un comunicato così demenziale sarei stato licenziato in tronco. Ma a parte questo, però, dico, trovo singolare che un personaggio, un politico come La Russa, un ministro della difesa, che ha sempre fatto dell'onore per la bandiera, l'orgoglio per la bandiera, uno dei suoi cavalli di battaglia, poi rinfacci ai giocatori del Siena di essersi impegnati. Voglio dire, è un controsenso. Se proprio vogliamo entrare nel merito, Alessandro, in realtà non è che lui rimprovera i giocatori del Siena di essersi impegnati, ma di essersi impegnati per pareggiare. Allora dice La Russa, dovete impegnarvi per vincere, non per pareggiare. Ma insomma, è un ragionamento folle. Sì, ma per carità, sono d'accordo con lei, e per di più non andava fatto ieri. Sì, a prescindere. No, se mi fate una battuta, dico, io so che gli interisti sono abituati a giocare con la Lazio, quindi chiaramente poi col Siena ci sono rimasti male, però voglio dire. E va bene, andiamo con la battuta. E a proposito di satira, Stefano Andreoli, per l'ultimo collegamento di oggi con Spinoza.it, cosa ci regali, Stefano? Siamo qui sulla breaking news del momento. Santoro lascia la Rai, ma resteranno amici. Pare si tratti di una separazione consensuale, erano d'accordo sia la Rai sia Berlusconi. Santoro se ne va dalla Rai, la Rai comunque l'aveva lasciato da un pezzo, va detto. Ma ora è finalmente chiaro cosa intendesse Berlusconi quando parlava di grosse sorprese per il prossimo Milan. Eh beh, certo. Vorrei chiudere con un altro paio di battute su Lombardo. Fate le tessere, l'alternativa è rubare. È bello sapere che hanno un piano B. Il piano B è strepitoso. Fate le tessere di partito, l'alternativa è rubare, ha dichiarato Lombardo, uno che si è sempre vantato di essere un governatore alternativo. Grazie Stefano, grazie Stefano Andreoli. Spinoza.it, il top della satira in questo momento, anche libro tra poco per la Liberty Editore. Grazie. In collegamento da casa sua, Salvatore da Salerno. Pronto? Salvatore, dica, abbassi la radio, abbassi tutti, spenga, faccia quello che vuole, importante che sentiamo la sua voce in maniera positiva. Sì, abbassata. Sì, chiamo da Salerno. In effetti volevo fare un piccolo intervento al dottor Cruciani per quanto riguarda la dichiarazione della Santanchè. Dica, la sento benissimo, pendiamo dalle sue labbra, Salvatore. Per quanto riguarda il fatto che la Santanchè reputa invasiva la privacy dei mafiosi quando hanno conversazioni di tipo sentimentale con le loro donne, compagne o chi che sia, Volevo ricordare alla Santa anche io sono un operatore del settore, ho lavorato con le intercettazioni telefoniche in lavoro. Che significa operatore del settore? Ci spieghi? Sì, che sono un agente di polizia. Sì. Che praticamente molti latitanti sono stati presi proprio grazie alle conversazioni sentimentali che hanno avuto con le loro donne. Perché comunque durante una conversazione telefonica che a volte può durare pure ore, si lasciano sfuggire dei piccoli particolari, dei piccoli dettagli che per noi operatori di polizia sono importanti e sufficienti per risalire al covo di quel latitante o comunque ad altri estremi per racchiudere poi delle associazioni di tipo camorristico o quant'altro. Beh, Salvatore, lei ha fatto bene a intervenire, perché effettivamente io ve la voglio fare riascoltare, perché è una cosa che non ci si può credere. La Santanchè che parla di intercettazioni e dice, beh, insomma, la privacy dei mafiosi quando parlano con le fidanzate o con le amanti, ma cosa c'entra? Non è questa la motivazione per intervenire sulle intercettazioni? Santanchè! Se c'è un mafioso che si sta indagando su un mafioso, che senso ha intercettarlo mentre parla con la fidanzata degli atti sessuali che compie o quando parla con la madre? Questo non ha senso, un abuso, ma sono milioni, migliaia di euro che vengono spesi. I mafiosi con l'amante, con la madre, con la fidanzata. Salvatore, lei che è un poliziotto, mi dica qualcosa sulla Santanchè. Io oggi sono troppo duro, mi scaldo forse. No, io le posso dire soltanto questi, guardi, a prescindere che non so in base a quale presupposto la Santanchè esclude quale conversazione prendere per buona o per nulla quando parla il mafioso. Quando parla un mafioso la conversazione può essere sempre buona ed utile per indagini di polizia giudiziaria. Certo. Quindi io vorrei consigliare alla Santanchè, come a qualche altro politico italiano, di tenere un po' di più la bocca chiusa e di aprire un po' di più gli occhi, perché ci sono tanti sperperi e sprechi soprattutto nel settore della pubblica amministrazione, e guardare lì, ma non su queste cose serie. Se si sono tradotti in carcere tanti pregiudicati, se ci sono stati tanti arresti, soprattutto nella mafia ultimamente, posso assicurarla che è grazie alle intercettazioni telefoniche e ambientali. È vero, ci vogliono dei bei soldi per fare questo, ma è vero che danno anche degli ottimi risultati. Non lo dobbiamo dimenticare. Va bene, grazie Salvatore. Intanto meno male che Silvio c'è. Viva l'Italia! L'Italia che ha scelto di credere ancora in questo sogno. Presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. È la voce qui alla Zanzara di Andrea Vantini, l'autore di questa canzone. Buonasera. Buonasera a lei, come sta? Non c'è male, in collegamento da Verona, da casa sua o no? Da Verona, sempre da casa mia. Sempre da casa mi sua. Mi trova sempre a casa. Come, lei sta sempre a casa? No, ho detto lei mi trova curiosamente sempre a casa. E invece lei non sta sempre a casa? No. No, perché a volte esco. Anche perché io la chiamo sempre. Una volta alla settimana esco. Una volta alla settimana esce. Quando non sta lì a comporre le musiche per Berlusconi esce. Vabbè, no, sto scherzando naturalmente, però caro Vantini, qui siamo di fronte a un'altra notizia. Lei ha già composto una canzone che vuole fare diventare l'inno del Veneto, la vuole proporre a Zaia. Allora, gliela portiamo noi, già glielo dico subito. Gliela portiamo, gliela consegniamo al ministro Zaia. Come fa questa canzone, questo inno del Veneto? A questo punto non mi rimarrà che riconoscervi delle royalties se riuscite. Vabbè, noi non, so, non abbiamo bisogno, siamo già ricchi, siamo la radio di Confindustria. Insomma, ah, abbiamo... beh, allora non c'è problema, allora tengo tutto io che sono poverello. Allora, la canzone ve l'ho anche mandata in MP3. Vabbè, dopo la facciamo ascoltare, adesso non ci freghi così, perché volevamo farla ascoltare agli ascoltatori, ci ha fregato. Vabbè, lasciamo perdere. Allora, mi dica come fa. Allora, vi faccio la prima strofa che secondo me ha già un po' dentro tutto il senso del brano. Faccio la prima strofa. Lei è bravo a... Ma lei è troppo gentile. No, è bravo a improvvisare, dico. Sogno Veneto, canto Veneto, sento Veneto, scrivo Veneto, gente concreta, gente discreta, gente del Veneto. Questa è la strofa. Poi il resto lo lasciamo... E lo lasciamo facciamo partire questa canzone. Sogno Veneto, vivo Veneto, scrivo Veneto, canto Veneto, gente discreta, gente concreta, gente del Veneto. Sogno Veneto, vivo Veneto, penso Veneto, credo Veneto, mani e lavoro, di pioggia e di vento, gente. Vabbè, questa è la versione, come dire, no? Curata, eccetera, eccetera. Ma... Curata, arrangiata. E poi alla fine parto io a cantare, ma in realtà poi arriva un grandissimo coro che fa con me quasi tutto il brano. Ma noi la manderemo per una settimana di seguito, Valtini, perché queste cose ci appassionano particolarmente. Basta che non ci chiede a noi poi le royalties dei diritti della SIA. Allora... no, sono io che le devo dare a voi invece. Ma sto scherzando. Senta, io conto dal governatore a portare questo inno. Però io voglio capire una cosa: come le è venuto in mente di fare l'inno del Veneto, che è la sua regione, per carità? L'ispirazione da dove l'ha presa? L'ispirazione me l'ha data il ministro Calderoli. Addirittura? Eh sì, perché un bel giorno disse: ogni regione dovrebbe avere un suo inno. A quel punto io, che sono veneto, ho ben pensato di scrivere l'inno veneto. Se fossi stato a Mariano Apicella magari avrei scritto l'inno alla Campania, che non so. E quindi da lì mi trovavo a Cortina e guardando i monti meravigliosi, ripensando a tutte le cose che comunque conosco del Veneto, è nata, non pensavo nemmeno di andarcene in fondo quando ho cominciato. Cioè lei l'ispirazione l'ha presa guardando i monti da Cortina, dov'era esattamente? Guardando i monti e pensando al mare, perché... Però che c'entra con il Veneto, Peroso, eccetera, questa è un'altra cosa. No, vabbè, che discorsi, poi quando si parla di terra si parla di territorio, sì, e si parla di chi ci vive, no? Certo, e ogni regione ha delle peculiarità relativamente a chi lo abita. Certo, per cui insomma, lei monti, insomma, cerchiamo di riassumere la questione. Lei era a Cortina in montagna, dall'alto, una vista meravigliosa, e si è messo a scrivere. Era tempo che volevo farlo, però non è che uno può scrivere a comando, scrive quando, ringraziando Dio, si può fare. E di conseguenza Cortina è stata senz'altro molto, molto interessante per questo. I colori, il sole, i monti. E cosa c'è poi oltre? Il resto viene, non è che l'ho scritta tutta Cortina, è nata lì e poi chiaramente le cose vengono ripensate, vengono lavorate, perché scrivere alla fine è tanto bello, è tanto emozionante, ma è pur sempre un lavoro, no? Certo, lei Vantini è classe 69, dunque ha... Tanti, fra pochissimi giorni, il 26 di maggio, ne compio 41. E vabbè, ma non è a tantissimi, eh? Insomma... Senta, ma c'è speranza, secondo lei? Ce la possiamo avere la speranza che venga adottato dal Veneto? Che dice? Ce la possiamo fare io e lei? Ma guardi, io sono abituato a lottare per qualsiasi cosa. E per cui lotterò anche per questa. Se avrà ragione, se sarà piaciuta, se piacerà. Ora, nel testo ci sono monti, mare, lago, poi c'è la gente del Veneto, e poi che c'è d'altro? Me lo dica, perché io ancora non l'ho sentita, No, è esattamente questo, cioè parla del territorio, delle bellezze e della gente, della gente del Veneto, di com'è la gente del Veneto. Ho capito. Vabbè, senta, io intanto sottopongo ai veneti che ci ascoltano, che sono tantissimi, insomma, siete rimasti agghiacciati da queste cose, da queste note, oppure siete entusiasti? Mi scusi se la butto... Poteva essere anche il contrario come domanda, non necessariamente... Vabbè, la metto al contrario, giusto? No, in positivo e in negativo. Siete rimasti entusiasti, oppure vi sono venuti un po' i brividi, insomma, sentendo queste cose? Io mi devo fare ancora un'idea, però magari sono in una via mediana, oppure non lo dico, ma comunque la propongo al governatore Zaia, perché la voglio dare una mano. Grazie. Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori, arrivederci. Andrea Vantini, il titolo, qual è il titolo? Vantini, il titolo, mi sono scordato. Sogno Veneto, grazie. Borsa. La Zanzara. Sogno Veneto, vivo Veneto, scrivo Veneto, canto Veneto. Gente discreta, gente concreta, gente del Veneto. Sogno Veneto, vivo Veneto, penso Veneto, credo Veneto. Mani e lavoro, di pioggia e di vento, gente del Veneto. È questo coro che dalle montagne si intona col mare. Andrea Vantini da Verona per l'inno del Veneto. Lo proponiamo insieme al presidente della regione Veneto, Zaia. Lui, che è l'autore di Meno male che Silvio c'è, vuole che sia adottato come inno del Veneto. Gli ascoltatori reagiscono in maniera molto diversa. Vabbè, insomma, sorvoliamo su alcuni messaggi in dialetto anche strepitosi, ci sarà tempo nei prossimi giorni. Sentiamo, sentiamo, perché no? Ma cambia poi la strofa o no? O è sempre la stessa? Quando cambia questa strofa? Il mondo ci ammira, gente del Veneto. Guglielmo, provincia di Ferrara, buonasera, chiamatemi dal Veneto. Buonasera. Che ride, Guglielmo, che c'è da ridere? C'è da ridere. Mi fa ridere la canzone, mi sembra una canzone di Pupo, per questo motivo, vabbè. Comunque. Perché Pupo le fa ridere, scusi. No, la voce della canzone di Bravo, quella di Bubo. Sì, è vero, un po'. Insomma, Andrea Vantini è l'autore di Meno male che Silvio c'è, ma lei non si rende conto, Guglielmo. Meno male. Comunque, niente, volevo intervenire sul fatto di quel discorso degli stipendi degli statali, dei politici, posso dire la mia, nel senso che non sono, il problema non è lo stipendio che prendono i politici, anche se venisse tagliato un poco non ci sarebbe nulla di male. Il problema è che questi politici, nel momento in cui si trovano hanno la loro carica, cioè raggiungono la famosa poltrona, ecco che se ne fregano, diciamo, dello Stato italiano, e di conseguenza fanno tutto quello che gli pare piace, e si vede il caso Scajola, eccetera eccetera. E questo quello che si... Vabbè, Guglielmo, lei sta dicendo il problema non è lo stipendio ma la produttività, insomma, quello che alla fine fanno i politici. Vabbè, Guglielmo, lei continua a ridere perché io lo so che cosa ha in testa lei. Cioè, lei si è chiesto, ma insomma, questa canzone qui, poi tra l'altro non c'è una parola in dialetto, vabbè, che dialetto poi, quale dialetto poi, trevigiano, certo, veneziano, eccetera, chiaramente bisogna che sia in italiano, perché altrimenti come potrebbe essere adottato dal Veneto? Però insomma, certo, un po' di dialetto, altrimenti potrebbe essere applicata per qualsiasi ragione. Infatti, certo. Comunque. E poi mi fa dire un'altra cosa. Un attimo solo, Guglielmo, sì. Si becchi pure quest'altra strofa. No, volevo sentire il coro, sì, come ha detto Vantini, a un certo punto è intervenuto il coro. Vabbè, Guglielmo, senza ridere, mi dica. Volevo intervenire anche su un'altra, sul fatto, diciamo, che è successo ieri, sulla guerra in Afghanistan. Cioè, è assurdo che ancora l'Italia, così anche gli altri paesi europei, si trovano a fare una guerra assurda. E la cosa che mi fa rabbia è che viene ancora spacciata come una guerra per portare la democrazia in un altro Stato. Perché io mi domando, per quale motivo si fa una guerra in Afghanistan e non si fa una guerra per portare la democrazia in altri paesi degli stati africani, dove ci sono ogni giorno centinaia di persone muoiono, ma nessuno fa nulla per quegli stati. Vabbè, Guglielmo, il discorso sarebbe molto lungo, però insomma ho sentito delle cose da parte di alcuni esponenti dell'opposizione sulla vicenda in Afghanistan che sono incredibili. C'è Di Pietro, che era uno strafavorevole alla presenza delle nostre truppe, che adesso dice c'è una guerra, una carneficina e quant'altro. Vabbè, la ringrazio, Guglielmo. Massimo, provincia di Varese, buonasera. Buonasera Cosciani, voto agghiacciante anche da Lombardo. Alla canzone? Agghiacciante. Da Lombardo lei dice agghiacciante. Assolutamente. No, mi permette di intervenire riguardo questa caccia alle streghe, ai politici e quant'altro. Io sono un povero sindaco di un comune di 5.000 abitanti, prendo 750 euro al mese di indennità. Ora... Vabbè, lei può continuare. Guglielmo, con le frasi demenziali dette dal signore di prima, sì, sulla poltrona, guardi, è una lotta continua con i dipendenti, hai fatto questo, non hai fatto questo, cioè devi stargli sotto sempre e comunque se vuoi che le cose vanno avanti. E sei alla loro mercé, del tipo che se trovi, viva Dio, persone collaborative, come quelle che ho trovato io, con mille difficoltà le cose le porti avanti. Ma io vedo i miei colleghi in cui la struttura si mette di traverso e tu, mio caro sindaco, non hai gli strumenti per governare a pieno. E vi ripeto, per 700 euro al mese, due mattine alla settimana che non dedichi al lavoro, il sabato tutto il giorno, quant'altro, per amor di Dio, è piacevole. Però vi dico che è veramente stancante e impegnativo. Di quanti abitanti? 5.000 abitanti. 5.000 abitanti, vabbè, insomma. 5.000 abitanti. No, è già impegnativo perché è un bilancio da 6 milioni. E lei come sindaco lavora due mattine a settimana? No, lavoro due mattine a settimana, sono in comune, viva Dio l'azienda me lo fa fare, lavoro dopo Milano, quindi lavoro anche lontano. poi per lavoro un giorno alla settimana vado a Roma, quindi si può ben immaginare il tempo. Insomma, quanto dedica al lavoro da sindaco? Martedì mattina, giovedì mattina e sabato. E gli abitanti non dicono niente, non ci vuole un sindaco a tempo pieno, che no, comune è? No, 5.000 abitanti ti prendono a cammino a Varese, ti fanno scappare, cioè sarebbe un furto, un delirio, perché voglio dire, se organizzi bene la macchina, insomma, poi anche stare lì tutto il giorno cosa fai? Eh beh, certo. Cioè, se poi devi diventare, no, però ripeto, questa caccia alle streghe su che il politico sembra di qua e di là, guardi che non è sempre così, ho degli amici senatori che addirittura ci smenano lo stipendio facendo senatore, che erano medici o quant'altro, per amor del cielo, quindi poi che ci siano degli esempi scandalosi sono il primo a dirlo, ma lei pensa un dipendente pubblico che alle 2 ha finito e prende 1.500 euro al mese, un part time ha quasi le stesse ferie di uno che lavora full time nella pubblica amministrazione. Beh, però non mi dirà Massimo non mi dirà, sì, che i soldi che prendono i parlamentari, come lei dice riferendosi ad un suo collega senatore, così bastano appena per sopravvivere? Insomma, non è così. No. Poi purtroppo non volevo fare reclame, però nella Lega la metà dello stipendio devi darlo al partito, quindi è poco da arricchirti. Questa è la regola che c'è nel partito. Lei è un sindaco leghista, Massimo? Sì, ma non volevo entrare nel No, ma era così, per carità. Nella Lega c'è ancora questo, il parlamentare versa metà al partito? Le dico, tra la segreteria provinciale, tra la segreteria federale, danno oltre il 40% dello stipendio. Oltre il 40%. Bene, Massimo, sì. Grazie, buonasera. Grazie. Leonardo da Padova, prego. Buonasera, Cruciani. Buonasera. Io volevo intervenire sulle meraviglie del Veneto. Sì. Allora, innanzitutto la canzone, a parte che mi sembrava una canzone di Toto Cotugno, perché un po' il motivo mi sembra un po' così, ma non trovo poi così, io vivo in Veneto, ma non lo trovo poi così un posto così affascinante. Cioè il Veneto è una distesa di capannoni bruttissimi, tra l'altro. Vabbè, adesso Leonardo, lei è di Padova, penso, no? Sì, Veneto, adesso sputa sul Veneto, e perché? No, perché io sono italiano e sono orgoglioso di essere italiano, sono stanco di sentire parlare di Padania, di Veneto. Lo sa, Cruciani, che non ci sono bandiere italiane qui, non si vedono, cioè perché non mettiamo fuori un po' di bandiere dell'Italia? Ma non è vero, in Veneto c'è anche gente che ama la bandiera italiana, chi l'ha detto? Sì, ma però Leonardo, mi scusi, parla di... questo signore parla di, cioè l'autore del inno, di Cortina, dice. Che quando era Cortina, intanto bisogna dire che Cortina è un'enclave per miliardari, per tutti gli industriali italiani, quindi poi... Le realtà del Veneto sono veramente, veramente... Però, cioè, scusi Venezia, Leonardo, qui non stiamo a parlare del Veneto in generale. Questo inno le piace o no? No, lo trovo disgustoso. Cioè, disgustoso, perché innanzitutto non ha nessuna qualità né vocale né canora, ma poi cosa c'entra? Cioè, fossimo partenopei, probabilmente ci sarebbe una tradizione musicale di un certo livello, con qualità. Questi si inventano delle... Veramente sono cose d'austeria, secondo me. Va bene, Leonardo, grazie. Molto chiaro, molto chiaro. Traffico. La Zanzara. Sembra non essere troppo apprezzata, ve lo dico subito, tra messaggi e interventi, questa canzone, questo nuovo prodotto di Andrea Vantini, che è l'autore di Meno male che Silvio c'è, e propone al governatore del Veneto Zaia il nuovo inno del Veneto, o il primo inno del Veneto, non credo esista un inno del Veneto. Massimo da Taranto, buonasera. Buonasera Cruciani. Dica. Dunque, uno può pensare, cosa c'entra il giudizio di un pugliese riguardi dell'inno del Veneto? Allora, premetto che le mie simpatie non vanno dal lato destro, e anche che lo trovo un attimo eccessivo, l'eccessiva personalizzazione, sto parlando di Meno male che Silvio c'è. Premesso questo, io faccio il DJ da 35 anni, quindi do un giudizio tecnico, un po' di orecchio musicale vorrei che mi venisse riconosciuto. Vada, vada pure, giudichi Massimo. L'Inno del Veneto è bello, suona bene e da cantare in massa. Addirittura. Non è ironico, non è alla fede. Lei sta ironizzando, Massimo. No, assolutamente no. Io, a me piace anche musicalmente parlando, meno male che Silvio c'è. È azzeccato, è indovinato. Anzi, vorrei, per cortesia. No, quello può darsi, un altro discorso, ma le piace anche l'Inno del Veneto? Sì, mi piace. Suona bene e dà l'idea di essere cantato. Io l'ho già memorizzato, cantato da delle moltitudini di persone. C'è Sogno Veneto, funziona. Com'è che fa? Ve lo dico da DJ, funziona. C'è Sogno Veneto, vivo Veneto, canto Veneto, canto Veneto. Sì, funziona. Lei è anche intonato, lei è anche intonato, Massimo. Un pochino. Posso chiedere anche, ripeto, non c'è assolutamente nessun intento ironico, se potesse, nei ritagli di tempo, scrivere anche un inno per la Puglia. Sempre Vantini, Sì, perché Ma sai, il problema, lo sai qual è, che in Puglia c'è Vendola, non so se Vantini, insomma... Sì, vabbè, ok, non saranno in sintonia, però se un prodotto è buono, cioè, diciamolo... Io sono a 1200 chilometri forse da loro, però a parte che ho tantissimi amici in Veneto. Ma magari esiste anche un inno della Puglia già, non è detto. No, difficile. Non vorrei scendere nella solita pizzica o taranta. No, non credo. Ma... Invece lo stile inno, Vantini è bravo perché cuce e compone secondo lo stile inno, cioè secondo la più grande tradizione italiana. Che arriva fino a Mameli. Ho capito Massimo, adesso sto riflettendo sulle sue parole. Grazie mille, grazie di questa telefonata. Da Padova. Grazie a lei. Da Padova c'è Daniele, buonasera. Buonasera dottore, salve. Lei è rimasto agghiacciato oppure entusiasta oppure indifferente, allora, oppure le piace poco, tanto? La canzone diciamo che non mi piace assolutamente, speriamo che il nostro governatore non accenti l'invito del cantautore. Però penso che magari un inno per il Veneto ci possa stare, ne abbiamo, hai qualche canzone che racconti delle imprese dei nostri soldati magari sul Piave o su altre grandi battaglie che ci sono state in Veneto. Rispondendo all'ascoltatore di prima, per quel che riguardava il suo Veneto, io sono innamorato del Veneto e penso che se... Cioè, l'ascoltatore di prima la dipingeva una lunga fila, una lunga teoria di capannoni, ma insomma è una cosa ingenerosissima. È ingenerosissima anche perché siamo la prima regione, penso, come turisti. E per quel che riguarda invece il fatto che ci siano tante bandiere della Repubblica fuori dalle case, perché i veri veneti a volte non è che non si sentono italiani, ma hanno un insieme, una cultura data dal territorio che gli fa sperare che ci sia di nuovo un doge come il ministro Zaia magari. Lei mi è un tantinello leghista, Daniele, vabbè, lasciamo perdere. Grazie Corrado da Verona, naturalmente adesso c'è un profluvio di gente che chiama dal Veneto per questo inno del Veneto creato da Vantini, non dico per noi, ma insomma presentato in anteprima qui alla Zanzara e poi al governatore del Veneto. Corrado, dica. Niente, io non mi sento assolutamente rappresentato da questa canzone, sono di Verona e cioè io reputo il Veneto una... Lei è di Verona come Barisoni? Sì, sono di Verona. Che sicuramente non si sente rappresentato da questa canzone, se così, se posso intuire. Cioè a me piace tantissimo il Veneto come anche altre regioni d'Italia, come signore di prima... quello che ha chiamato di Padova, sono un po' stufo però di sentire questa Padania, cioè io vivo in modo totalmente diverso l'unione tra le varie regioni che ci sono, cioè sono tutte belle, tutte, e questo campanilismo non mi piace proprio, quindi questa canzone come anche altri indie non... cioè mi sento proprio di... Va bene Corrado, grazie. Claudio sempre da Verona, buonasera. Claudio, che casino, dove si trova? Insomma, sono nella zona della Valle della Morte di Verona. E che sta facendo? Che sta facendo? Sto aspettando di parlare con te, ci diamo del tuo, siamo colleghi. Allora, io non sono legista, sì, però conosco molto bene Andrea Vantini, la canzone è bellissima, è una ragazza meravigliosa. Solo questo. Va bene, Claudio, Prendiamo il suo intervento così com'è. Roberto da Prato. Pronto? Pronto. Sì, buonasera. Dica. Quant'è che aspetto di parlare con lei, Cruciani? Siamo qui adesso, siamo qui. Allora, io vorrei parlare dei cosiddetti stipendi dei politici. E che c'è da aggiungere dopo giorni di discussione, Roberto? Cosa c'è da aggiungere? Cosa c'è da aggiungere? Secondo me io ho una mia convinzione. Io sono un rappresentante, non è che sono un politico, non ho mai fatto politica. Questo l'avevamo intuito. Commercio. Però da alcune situazioni che mi sono capitate ultimamente ho dedotto che secondo me, questa è una mia opinione, secondo lei? Secondo me i politici con gli stipendi che prendono sono i primi evasori fiscali. Roberto, ma non possono evadere l'età perché lì è tutto registrato. Ma se no c'è un problema. Lei faccia conto, lei faccia una piccola deduzione insieme a me. Lei faccia conto di quelle che sono le esenzioni che hanno da macchina e li portaborse. Abbiamo scoperto. Ma non è il portaborse, li pagano, è compreso nel forfait, eccetera. È stato scoperto ultimamente che sono stati pagati. Vabbè, Roberto, andiamo al sodo. Qual è il punto? Che c'entra l'evasione fiscale con i deputati? Questa è la mia opinione. Cioè, secondo me, se fosse invece una cosa un pochino più limpida, cioè tutti, ma anche questo metto anche me, i cittadini italiani. Ma più limpida cosa? È tutto segnato lì. Se le tasse venissero pagate in base alle entrate, quando c'è un'entrata c'è un'uscita, poi ovviamente quello che c'è in più, se uno non Roberto, però mi scusi, se vogliamo parlare dell'evasione fiscale va bene, ma i parlamentari, lo stipendio dei parlamentari è tutto registrato, poi possiamo dire è troppo alto, il forfait è esagerato, bisogna che sia più trasparente una cosa, ma l'evasione fiscale in questo caso non c'entra. Ma devo chiudere, Sabina da Verona, proprio un flash. Buonasera, buonasera. Buonasera, mi dica. Mi state rovinando la serata, in sostanza. E con che? Con l'inno? Con l'inno, sì, veramente me la sto Abbiamo rovinando. Capito tutto. Ci dispiace, però è così, è capitato. Ci sentiamo domani, 18:30. Ricordati che devi morire. Come? Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me la segni proprio. Radio 24. La passione si sente.